Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24. Innanzitutto mi scuso per la voce, oggi più che viva, sta così così. La vicenda della privatizzazione di Alitalia, ci sembrava che qualche giorno fa si potesse arrivare a una svolta, invece abbiamo scoperto che almeno per il momento non è così. Alcune sigle sindacali dell'Italia non ci stanno, rappresentano soprattutto i piloti, gli assistenti di volo, accusano la CAI, l'accordata di imprenditori, di aver cambiato le regole, le carte in gioco sostanzialmente dell'accordo firmato il 14 settembre, e ieri in una affollata assemblea, anche molto tesa, molto sentita, hanno deciso di andare avanti nella mobilitazione, portando avanti delle forme di protesta e chiedendo di riaprire l'accordo. Si deve rifare più o meno tutto, bisogna a rimettersi a un tavolo, perché così non va bene, secondo queste sigle sindacali. Insomma, Alitalia punto e a capo. Saluto il ministro Altero Matteoli. Buongiorno ministro, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Ministro, grazie. Delle Infrastrutture e Trasporti, da lei partiremo per qualche minuto in apertura per capire se effettivamente, insomma, siamo a un punto, a un passo indietro sostanzialmente rispetto a quello che sembrava un accordo ormai raggiunto. Poi ci saranno ovviamente dopo di lei sigle sindacali, professori, ne parleremo. 800 24 00 24. Il problema all'Italia, la situazione all'Italia, col ministro Altero Matteoli in apertura. Ministro, le sottopongo un'ansa che è uscita in questo momento dal Vietnam, perché sapete Colaninno è in Vietnam, una missione tra l'altro con Confindustria. Ha detto poco fa Colaninno, la CAI non convocherà i sindacati autonomi dell'Italia che hanno chiesto un nuovo incontro. Di fronte alla richiesta di chi era con lui, ha detto no, no, no, tre volte no. Ministro Matteoli, le sigle sindacali chiedono di riaprire tutto, invece questo no è definitivo anche da parte del governo? Non è possibile, il negoziato è terminato, è stato lungo, in alcuni momenti acceso, si era trovato poi il 14 di settembre un accordo che è stato sottoscritto da tutti. Dobbiamo ricordarci che l'ANPAC ed altre sigle non avevano firmato in un primo momento, la CAI ha accettato di riaprire il negoziato per consentire a loro di firmare. La riapertura del negoziato ora vorrebbe dire la fine di Alitalia, e questo non lo vuole né il governo, certamente non lo vogliono quegli imprenditori che hanno deciso di investire, quindi il negoziato non può essere più reale. Nessuna convocazione, insomma, non c'è ipotesi di una convocazione. Però le chiedo, insomma, avrà visto e avrà letto i resoconti dell'assemblea, sì, molto combattuta. È vero, non hanno ancora proclamato sciopero, ma hanno detto entro qualche ora il governo, la CAI, dia un segnale, e i segnali sono questi, di chiusura, altrimenti faremo qualcosa in più. Sì, ho visto, voglio sperare che almeno il buon senso abbia sopravvento in questa fase, perché lo sciopero in questo momento, bloccando gli aeroporti, sarebbe un disastro ulteriore, ma il governo questo non lo potrà consentire. Quindi c'è anche all'estrema ratio l'ipotesi di un'eventuale precettazione? La esaminerà al momento opportuno, non mi parrebbe giusto esprimere ora giudizi su una cosa che ancora non c'è. Certo, se viene proclamato, io ho il dovere, tra l'altro ho la delega, io ho il dovere di riflettere e di prendere poi le decisioni. Senta ministro, però che per pilotare un aereo ci voglia un pilota e ci vogliono degli assistenti di volo, su questo almeno siamo tutti d'accordo. Certo, è vero, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. È vero che la CAI ha detto procederemo eventualmente anche con le chiamate singole a chiedere tu ci stai, tu sei dentro, tu sei fuori, eccetera. È questa l'ipotesi possibile, voglio dire? Cioè, di fronte a tanti no anche da quella parte, cosa succede, voglio dire? Chi li pilota gli aerei? Beh, guardi, a me dispiace questa posizione dei piloti per una serie di motivi. Il primo, i piloti all'Italia hanno una professionalità altissima. Viene riconosciuto da tutti un fatto: Alitalia ha avuto sempre tanti problemi, prima è stata assistita, poi è arrivata all'ora del fallimento, ma in tutto il mondo viene riconosciuta la professionalità dei nostri piloti, la sicurezza, e su questo dispiace questa posizione, e che quindi abbiamo tutto il abbiamo avuto e dobbiamo avere tutto ciò che è possibile fare per cercare di far sì che i piloti siano assunti da CAI. Quale alternativa ha CAI? Io non ho parlato con Larino e con Sabelli su questo aspetto, però quale alternativa ha CAI se non quella di chiamare i piloti e sottoporli il contratto? Non vedo un'altra possibilità. Però c'è la possibilità che di ricevere anche tanti no, ci fosse un fronte compatto dei piloti, degli assistenti di volo sul no. Voglio dire, il problema cosa, si porrà prima o poi. Alcuni piloti che sono iscritti ad altre sigle sindacali diverse dall'AMP, che sono iscritti, sono minoritari rispetto al numero di iscritti dall'AMP, ma anche nella CISL ci sono alcuni piloti, nell'UGL ci sono alcuni piloti che sono iscritti, quindi quelli non dovrebbero avere problemi, e gli altri si assumeranno la responsabilità. Io posso capire tutto, ma quando c'è un'alternativa, il commissario Fantozzi ha fatto miracoli per tenere in piedi all'Italia fino ad oggi. Se non c'è l'accordo, se CAI non è messa in condizione di poter far partire l'azienda, l'alternativa è il fallimento. Ma secondo lei il fallimento è ancora una prospettiva, cioè di fronte... Se CAI non è messa in condizione il 1° dicembre di partire, mi dica lei qual è l'alternativa all'Italia, la Bad Company, il commissario Fantozzi lo dice da tempo, io non ho più soldi per andare avanti. Cioè non è tutt'altro che finita la questione, voglio dire, purtroppo. Purtroppo sì, non è che c'è un'alternativa. Il commissario Fantozzi ha aspettato anche altre offerte, non è che CAI aveva l'esclusiva. CAI ha fatto una lettera di intenti, poi l'ha confermata, ha fatto un'offerta, ma non ci sono altri che sono presentati e hanno detto interesse anche a noi, quindi dobbiamo fare i conti con questa offerta di CAI. Ancora, e CAI è in condizione di farlo, perché anche su questo mi pare che non se ne parla, sul piano industriale non se ne parla più, no? Ma perché il governo si è impegnato, ci hanno riconosciuto i sindacati che non era mai accaduto che due ministri in una trattativa non si fossero mai alzati dal tavolo per supportare, per dare il contributo, eccetera. Ma partivamo da un fatto che ci aveva convinto il piano industriale. Il piano industriale di CAI oggi chiede dei sacrifici con gli esuberi, ma io sono convinto che nello spazio di un anno CAI sarà in condizione di riassumere anche, perché il piano industriale mi convince, poi ovviamente tutti possiamo sbagliare, ma noi partiamo da questo esame. Da questo assunto. Ministro, ancora un paio di domande. La prima, le sigle che del fronte del no hanno detto sono stati cambiati gli accordi del 14 settembre, è vero? No, guardi, l'accordo del 14 settembre è stato scritto, in conseguenza sono stati scritti i contratti. Evidentemente qualcuno ha firmato con qualche riserva il 14 di settembre. Ed oggi si trova a dover affrontare una situazione di disagio. Per carità, io cerco anche di capire le sigle che non hanno firmato, ma vanno raccontando anche cose non vere per cercare di per esempio? Quella di dire che c'è una macelleria sociale, se una dipendente incinta non viene riassunta, queste sono assurdità che CAI ha smentito nella maniera più assoluta, anche di fronte a delle domande di noi esponenti di governo, lo ha smentito nella maniera più assoluta. Quindi sì, se posta molto l'attenzione a dire da parte di queste sigle sindacali, un paio di giorni fa si è detto che sarebbero state discriminate soprattutto nelle assunzioni le mamme, e quindi molti assistenti di volo con bambini, oppure anche chi aveva bambini magari con disabilità o chi assistiva bambini con disabilità. Ma ci rendiamo conto che siamo nel 2008, cose di questo genere scatenerebbero non soltanto all'interno dell'Italia ma in tutto il paese delle proteste giuste anche, tra l'altro. Quindi non è possibile che qualcuno possa pensare di fare assunzioni pilotate in questo modo. Non è possibile, assolutamente. In conclusione, Ministro, insomma, nessuna convocazione, quindi le sigle firmino. Lei dice lo sciopero non sia mai, non voglio neanche pensarci. Però l'obbligo di pensarci una volta che... L'obbligo di pensarci. C'è l'eventuale precettazione, ho capito che una delle ipotesi nel caso ci fosse il passaggio allo sciopero, insomma, ma è ottimista o pessimista con questo? Cioè, cosa succederà? Guardi, sinceramente, il barometro cosa sia? Le parlo proprio con onestà intellettuale, partendo sempre da quello che le ho detto sul piano industriale, e quindi sono ottimista, sufficientemente ottimista, perché perdere questa occasione, perdere un'occasione di salvare 12.600 posti di lavoro, salvare una compagnia aerea che per l'80% ha capitale italiano, oltretutto con l'obbligo di restare tale almeno per 5 anni, quindi è un'occasione che non possiamo assolutamente perdere. L'ultima domanda: i 300 milioni di euro di prestito ponte, se Bruxelles li considera prestito di Stato, li dovrà pagare la bad company, cioè noi? No, le dovrà pagare la bad company anche attraverso ciò che la bad company venderà e ciò che prenderà da CAI per vendere la parte di Alitalia. Cioè una parte dell'offerta di CAI andrà a pagare quello, sostanzialmente. Insieme agli aerei che resteranno fuori dal negoziato e che verranno venduti, così come altre proprietà di Alitalia che verranno vendute. Naturalmente oggi il commissario Fantozzi, il tribunale lo ha autorizzato a pagare gli stipendi e naturalmente il carburante, perché per far continuare altri pagamenti non è in condizione di poterlo fare, e naturalmente anche se le volesse fare dovrebbe essere certo, autorizzato dal tribunale. Ma finita partito CAI, il commissario ovviamente resta con la bad company e lì dovrà incominciare a vendere e pagare i debiti. I 300 milioni sono soldi che la bad company dovrà restituire al governo italiano. Allora, io la ringrazio, Ministro, per essere stato con noi. Altero Matteoli, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Le 9:22 minuti, 800 24 00 24, insomma, ci ha detto delle cose importanti. Voglio allora salutare, noi continueremo la trasmissione con il professor Gregory Aleggi, che insegna all'Accademia Aeronautica e alla LUIS gestione delle compagnie aeree. Buongiorno professore, grazie. Buongiorno. Ovviamente per aver ascoltato il Ministro Matteoli, che poteva stare in apertura e ci deve salutare. Saluto Fabrizio Tomaselli, coordinatore nazionale della SDL, Sindacato dei Lavoratori, una delle sigle che ieri era in assemblea. Buongiorno Tomaselli. Buongiorno. E Marco Veneziani, pilota di quelli della WIL Trasporti, cioè facendo parte della WIL, è favorevole all'accordo, ecco, tanto per dirla. Veneziani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, professor Aleggi, lei che ne pensa di quello che sta succedendo? Sono, voglio dire, sia con l'Anillo sia il Ministro Matteoli, poco fa ci ha detto l'accordo è chiuso. Non ci sono tavoli da riaprire, non ci sono trattative da riaprire, e dunque? Guardi, sul dunque credo che i due ospiti sindacalisti abbiano il polso e le alternative molto chiare e possono esprimersi in maniera più puntuale. Certo, la situazione io la vedo complessivamente in maniera un po' diversa dal Ministro. Quando si parla di salvare 12.600 posti di lavoro, l'altra faccia della medaglia è che se ne perdono quasi altrettanti. Quindi capisco bene il travaglio delle sigle sindacali. Ieri il comunicato del ministro Fantozzi, del commissario Fantozzi, mi scusi, ha dato alcune indicazioni sul contenuto dell'accordo. C'è stato un comunicato a tarda sera con richiesto dalla Consob, nel quale ha dettagliato in qualche modo ciò che CAI propone di comprare, e credo che ci sia un elemento sul quale vale la pena di riflettere. Tra le varie condizioni necessarie per perfezionare il contratto a fine novembre c'è precedente conclusione di un accordo con Atitec e Alitalia Maintenance Systems e Ales per vari aspetti manutentivi e di gestione. Queste qui sono delle aree, diciamo, di cui si è a lungo discusso, si ricorderà, se farle rientrare nella nuova Alitalia o meno. La garanzia di lavoro a queste aree, che non sono strettamente aeronautiche, sono più metalmeccaniche o elettroniche, probabilmente ha giocato un grosso ruolo nel convincere i sindacati confederali più l'UGL a firmare. Sì. quindi non sposta molto, temo, la situazione prettamente aeronautica. Un ultimo commento e poi sì, faccio intervenire gli altri ospiti. Vorrei dire, quando si parla di piloti bisogna distinguere tra due categorie, i comandanti, diciamo, e i primi ufficiali, quindi chi sta a sinistra e ha la responsabilità del volo e chi sta a destra e non ce l'ha. Perché dico questo? Perché non sono tutti uguali, hanno delle responsabilità sia operative che a livello di codice della navigazione ben diverse. E quindi, per assurdo, se i comandanti, che sono una piccola parte dei piloti, non aderissero in maniera massiccia, potrebbe bastare quello per inclinare tutto. Ma infatti l'accordo, se anche ci fosse, sarebbe un accordo secondo lei forte a questo punto, oppure così ballerino, insomma, qualsiasi folata di vento potrebbe succedere qualcosa? Cioè, se anche mi limito ad osservare che adesso siamo in un momento ovviamente di congiuntura economica difficile, ma ricordiamoci ad esempio che negli ultimi 3 anni sia Boeing che Airbus hanno avuto ordini record, 3 anni consecutivi. Questi aeroplani qualcuno li dovrà pilotare. È più facile costruire un aereo che formare un pilota, e non è un segreto per nessuno che buona parte delle compagnie concorrenti dall'Italia stiano facendo campagna massiccia di reclutamento in Italia. Emirates addirittura con annunci sui giornali fissando i colloqui a Milano. Quindi molti piloti che potrebbero andare per altre compagnie, insomma, all'estero. Potrebbero andarci o prima come alternativa, e mi risulta tra l'altro che qualche dirigente sindacale di qualche sigla dei piloti l'abbia già detto, che non firmerà personalmente quel contratto e non lavorerà mai per CAI, ma anche in seguito, ovvero se le condizioni fossero non accettabili, ritenute troppo basse, questa ovviamente è una valutazione soggettiva del singolo che, certo, che lavora, ecco, quel singolo potrebbe anche andarsene fra 6 mesi. Ma questo sicuramente, voglio dire, come ci sta in una trattativa normale, solo che i piloti, come dice lei giustamente, sono difficili da formare, sono una formazione lunga, insomma, non è che è costosa, non è che si trova un pilota, esco da qui dalla redazione e trovo un pilota che passa per la strada. Perché anche in relazione a quello che si era detto in alcune fasi concitate il mese scorso, si ricorda qualcuno ha detto andiamoli a prendere all'estero, sì, i piloti. Sì, molti piloti ce lo scrivono già via SMS, prendiamoli dalle altre compagnie, costano meno a pari professionalità. Ecco. Ma non costano meno, il punto è ben quello, che essendo un mercato in cui c'è un'alta professionalità, il lavoratore, diciamo, ha molti più margini trattative che in altri settori, non è il commercio. Certo, allora io vorrei andare da Tomaselli e Veneziani, un flash prima di andare un attimo in pubblicità, poi c'è tutta la seconda parte ovviamente con anche gli ascoltatori all'800 24 00 24. Tomaselli, perché no? Perché questo fronte del no che si dice, e si è detto anche, qualcuno l'ha detto ieri in assemblea, credo, nella concitata assemblea, attenzione perché gli italiani cominciano a non capire, cominciano a non essere dalla nostra parte. Ma guardi, io molto rapidamente credo che è necessario riportare la discussione, non questa ma quella generale, a una concretezza. Allora, quello che chiedono le organizzazioni sindacali è che semplicemente il rispetto di quello che è stato sottoscritto a settembre del mese scorso. Il ministro ci ha detto che però è lo stesso accordo. Sì, ok, però il ministro evidentemente non ha ben presente, anche perché non credo che il ministro abbia letto i contratti di lavoro, non ha ben presente quello che è accaduto, cioè è accaduto che a settembre avevamo preso ben precisi, mentre nella stesura del contratto, quindi quella che è stata firmata dalle altre organizzazioni sindacali, questi accordi non sono stati rispettati, quindi di questo si tratta, non di altro. Quindi al di là di tutte le difficoltà, settembre è stato un accordo difficilissimo per noi e penso per tutti, però è evidente che non corrispondono le stesure contrattuali, non corrispondono anche i criteri di assunzione. Ha sentito però Matteoli anche Colaninno dal Vietnam dov'è a dire non esiste nessun tipo di negoziato, cioè proprio un no totale, sì, alla riapertura, voglio dire. Ma vede, io credo che Colaninno ha più volte detto che l'impresa è quella che comanda, che bisogna smetterla con la cogestione, col sindacato e via dicendo. Guardi, noi siamo un sindacato che di cogestione non ne vogliamo neanche sentir parlare, siamo un sindacato non autonomo ma di base. Noi facciamo sindacato e in questa vertenza credo che lo stiamo dimostrando, che stiamo facendo esclusivamente sindacato. Chi invece sta facendo la cogestione sono proprio governo e sindacati confederali. quello che è accaduto è di fatto il risultato di un accordo di vertice che non ha tenuto assolutamente conto né dei lavoratori né tantomeno delle cose concrete che si fanno in una trattativa. Quindi io credo che Colaninno debba un po' scegliere tra controparti che magari lui le può considerare agguerrite, sì, ma corrette, oppure se sceglie come ha fatto finora con alleati che siano compiacenti, ma io credo che anche un pochino inaffidabili. Visto mi risponda con un sì o no che deve andare in pubblicità. Di fronte a questa chiusura c'è la possibilità dello sciopero? Beh, io le dico che i lavoratori sono molto arrabbiati. Ieri l'assemblea che abbiamo fatto è stata, sì, molto tesa, quindi è evidente che c'è tra le saranno momenti di tensione e quindi di possibile conflitto. Allora, io vado in pubblicità, ma poi promesso riparto da Marco Veneziani, uno di quei piloti. Io ho visto un paio di giorni fa in un'intervista a Sky, era lì lei intervistata, appena preso la parola a dire no, io ho firmato, io accetterò la proposta di Sky, si sono alzate una serie di buffone, smettila, stai zitto, come ti permetti, insomma gli altri piloti che evidentemente erano ben arrabbiati. Vado da Marco Veneziani, intanto saluto, ci ha raggiunto Massimo Notaro dell'Unione Piloti, buongiorno, una delle due sigle dei piloti, benvenuto Notaro. Notaro c'è? Sì, vabbè, adesso lo recuperiamo eventualmente. Veneziani, allora, segretario nazionale della UIL Trasporti, pilota, quanti insulti ha preso negli ultimi giorni dopo aver detto bisogna firmare? Guardi, qualche insulto, ma insomma cose sopportabilissime. Intanto voglio dire una cosa, che quelli che mi hanno detto, mi hanno un po' ingiuriato verbalmente, non erano dei piloti ma erano degli assistenti di volo, diciamo i più facinorosi di tutta la categoria. E poi quello che volevo dire è che questa non è un'avvertenza normale, perché a molti è sfuggito che questa non è un'avvertenza tradizionale. Noi veniamo da una compagnia praticamente fallita e una trattativa dove c'è un unico pretendente. Si è dimenticato questo e credo che i vertici sindacali di alcune sigle abbiano interpretato male la partita. Questo è il mio pensiero primo. Mm. Sa cosa le hanno imputato molti quando era lì a parlare, a dire ma proprio lei che fa parte della UIL, la UIL che è stata tra le prime sigle a mandare a mare il famoso accordo con Air France, adesso invece vi svendete a questa nuova impresa. Guardi, la UIL non ha mandato per primi la trattativa fallita con Air France. Beh, è stata una delle sigle che si è alzata per prima, diciamo. Sì, però tavolo. Voglio ricordare che noi chiedemmo 15 giorni di tempo perché il governo Berlusconi, che poi ha vinto le elezioni, il presidente aveva detto: se io vincerò le elezioni, certo, non venderò mai all'Italia ad Air France. E c'erano delle condizioni precise da Spinetta. La prima era quella dell'approvazione del nuovo governo e la seconda era il ritiro della causa fatta dalla SEA di Malpensa contro all'Italia. Quindi noi dicemmo: aspettiamo 15 giorni, vediamo come va la cosa e poi ne riparliamo. Poi le altre 8 sigle dopo 2 giorni si alzarono e tramontò la cosa. Io sono personalmente convinto che il presidente Berlusconi non avrebbe mai venduto all'Italia del France. Poi non so se è una cosa giusta o sbagliata, lo vedremo in futuro. Allora, prima degli ascoltatori, vorrei andare per un attimo da Massimo Notaro, eccoci qui, presidente dell'Unione dei Piloti. Allora, Notaro, poco fa Colaninno ha detto anche, aggiunto, prima c'è stato Matteoli da noi e poi le faccio una domanda su quello che ha detto Matteoli, ma Colaninno ha detto poco fa: siamo pronti a prendere piloti dalla compagnia low cost Ryanair. E ai cronisti che gli hanno fatto notare che Ryanair vuole i piloti dall'Italia, ha detto: vabbè, vedremo chi farà l'offerta migliore, le condizioni migliori. Allora, Notaro, lei ha già detto per la CAI non lavorerà mai, comunque. Io confermo, io non lavorerò per la CAI. Colaninno, se vuole prendere i piloti di Ryanair, dovrebbe farsi spiegare che non volano nessuno dei modelli di aeroplani che attualmente ha in forza l'Italia e quindi dovrà ritransitarli tutti quanti, oltre che con un aumento di costo, con un po' di tempo in più che ci vuole. Poi dovrebbero anche spiegare che i piloti della CAI, della Ryanair, sono selezionati, vengono fuori da altre compagnie, quindi quasi tutti pensionati o ragazzi di pochissima esperienza. Ma è evidente che Colaninno non conosce il lavoro del trasporto aereo. Se lo facesse spiegare qualcuno dei suoi consulenti, perché in questo modo credo che la sicurezza del volo sfugga anche come significato. Sì. Che cosa significa sicurezza del volo? Vede, ci sono 60 anni di storia per la sicurezza del volo, sono serviti per capire che gli equipaggi devono essere omogenei, che significa? Devono parlare la stessa lingua, che devono essere addestrati allo stesso modo, che devono essere abituati a lavorare insieme, perché io oggi lavoro con un pilota e domani lavoro con un altro, dopodomani con un altro. Ma mi sta dicendo che mi sta dicendo che i voli Ryanair non sono sicuri? No, non sto dicendo questo, sto dicendo che l'inserimento massiccio e robusto di piloti provenienti da un'altra compagnia, quindi con altri tipi di esperienze, prima di omogenizzarsi con i piloti di un'altra esperienza ci vuole del tempo. Vede, noi abbiamo purtroppo uno storico di incidenti e mancati incidenti piuttosto lungo, che ci danno ragione e ci confermano che quello che sto dicendo è vero, ma lui non lo sa perché non è il suo lavoro, ma qualcuno dei suoi consulenti glielo dirà. Le chiedo, sia Matteoli poco fa ai nostri microfoni in apertura, sia Colaninno hanno detto assolutamente no, non ci sono margini, non si riapre nulla, è tutto chiuso, quindi la richiesta che voi avete fatto ieri dall'assemblea di riaprire la trattativa si oppone, un no secco, deciso, si va avanti. E dunque adesso voi che fate? Sciopero? Guardi, noi non abbiamo chiesto di aprire nessuna trattativa, abbiamo chiesto di rispettare i patti che si sono già firmati. Ma loro poi dicono che sono gli stessi, il ministro ha detto. Non è assolutamente vero, loro hanno portato il contratto di Panna del 2001 e non quello in vigore firmato nel 2008, che conosco molto bene perché io l'ho firmato. Quindi loro hanno portato un contratto molto vecchio, perché evidentemente non ci basta il vantaggio che hanno già economico, perché hanno richiesto un contratto estremamente vantaggioso per le aziende, che è quello di Air One. In più hanno chiesto di avere una ulteriore riduzione rispetto a questo, in più non vogliono rispettare neanche quello, e poi ricordo che prendono circa 225 milioni di euro perché assumono la cassa integrazione e fanno occupazione. Peccato che mentre prendono soldi dalle tasche dei cittadini per fare occupazione, discriminano le fasce socialmente più deboli. Il dato di fatto però è che c'è un no, voi dite il contratto è diverso, lo dicono il contratto è uguale, va bene, però le posizioni sono distanti su queste, non c'è voglia di dialogare, dunque le rifaccio la domanda, cioè siete pronti anche allo sciopero? Assolutamente no, noi abbiamo tutta la voglia di dialogare, io vorrei che tutti quanti le istituzioni che in questi giorni ci hanno richiamato alla ragionevolezza leggessero i documenti e poi capissero chi devono richiamare. Mi scusi notaro, ma hanno già detto di no, allora sono loro che stanno dicendo che non hanno voglia di dialogare, non noi. Noi abbiamo voglia di dialogare, quello che facciamo, guardi, stiamo cercando ancora adesso di governare la situazione, perché le persone sono esasperate, sono arrabbiatissime, lo stiamo dicendo dall'inizio di questa trattativa, non ci hanno creduto, è evidente che adesso bisognerà dare gli ascolti. Allora, due ascoltatori, se sono rapidi, l'800 24 00 24. Marco da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. A lei e a tutti i suoi ospiti, sarò rapidissimo e telegrafico. Io credo che a questo punto lì si parla di dialogo, ma credo che il dialogo ce ne sia stato anche troppo. Io lo vedo da persona che lavora in imprese in un momento difficile dove l'economia, diciamo, non dà grandi segnali. È vero che queste persone hanno delle grandi professionalità e andrebbero salvaguardate, ma è anche vero che esiste un mercato, è anche vero che a questo punto, adesso, se io fossi in quella società che ha fatto l'offerta, direi va bene, sì, andate voi per la vostra strada, noi mettiamo le nostre offerte contrattuali sul mercato, chi vuole aderire aderisce e creano una compagnia. Se qualche asset di Alitalia potrà interessare, perché non dimentichiamoci che tanti aerei dell'Alitalia sono aerei molto molto No, ma questo è chiaro Marco. Professor Aleggi, è possibile, cioè Marco da Brescia ci dice adesso la CAI si comporti da azienda privata, non stia dietro a tante discussioni, ma si vada avanti per questa strada. Però quali sono le difficoltà in questo, quello che ci ha già detto prima? Allora, ci sono queste complesse regolamentazioni del trasporto aereo che sono mirate soprattutto alla sicurezza del volo, alla quale accennava prima il comandante Notaro. Quindi prendere un pilota, fra virgolette, qualunque e inserirlo in una compagnia nuova di zecca è abbastanza difficile. È più facile prendere un pilota qualunque, inserirlo in una compagnia esistente, formarlo prima da copilota, da vice se vogliamo, e poi portarlo da comandante. Ci vogliono alcuni anni. Quindi sostituire alcuni piloti è possibile, fare una compagnia ex novo senza soluzione di continuità rispetto a quella attuale è una sfida molto molto difficile. L'ipotesi di Colaninno di riprendiamo da Ryanair, bocciata da Notaro che ci ha spiegato le difficoltà del caso, lei come la vede? Guardi, in passato ci sono state, ad esempio Air One in un momento di crescita particolarmente tumultuosa qualche anno addietro prese molti piloti belgi quando era appena collassata Sabena. La Cityliner di Air One partì con piloti austriaci di una compagnia austriaca che era anch'essa collassata, però Ryanair è una compagnia che va bene, che fa utili, quindi non so quanto i piloti lì inseriti ormai con avviati a una carriera eccetera vogliano lasciare per un contratto che a detta dei loro colleghi è peggiorativo. Ci si può provare, però ieri Ryanair, scusi, concludo, ieri Ryanair a Milano ha detto che di essere sommersa da curriculum di piloti all'Italia. Quindi, bisognerà vedere dunque. Cesare da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, salve. Il mio è più un riferimento alla nuova azienda che decide di comprare l'Italia. Io voglio dire che è facile fare gli imprenditori con i soldi delle banche, comprare quello che ti interessa e non comprare tutto. E credo che quando uno compra un'azienda si compri sia il bene che il male. L'imprenditore è la persona che vuole cercare di creare lavoro, cercando di rimettere a posto le aziende, cioè non mettendo a casa o non assumendo chi non ti interessa. Allora io dico, era meglio l'opzione Air France, solo 2000 esuberi, immobilità. Ma quella ormai è storia purtroppo, Cesare, che dobbiamo fare? Dobbiamo guardare al passato, potremmo rianalizzare il perché, il per come si è fallita però, quella trattativa. Però quello che Kai dice, Colaninno dice o così, cioè anche alla fine io, se fossi un pilota che ho una mia professionalità... Lei non accetterebbe. Mi è capitato, dice, nella mia vita personale, l'azienda ha chiuso, messo in mobilità, la professionalità c'era, 20 giorni dopo il lavoro è ritrovato. Va bene. Beh, Veneziani, per esempio, che è un pilota, invece dice io ci sto. Fabrizio Tomaselli, le voglio chiedere dell'SDL, ricordo una delle sigle del fronte del no, se si arrivasse a un eventuale fallimento, cioè se la trattativa non si riaprisse nulla, se si arrivasse alla situazione peggiore, cioè il fallimento dell'Italia, voi non sentireste una qualche anche responsabilità di dover spiegare magari agli italiani, voi come lei, come altre sigle, di questo eventuale fallimento? Ma guardi, io rifiuto questa logica, nel senso che sono ormai mesi e mesi che si cerca di scaricare la responsabilità sui lavoratori e sul sindacato. Qui ci sono aziende, ci sono governi, ci sono istituzioni che hanno lavorato, poi giudicheremo alla fine se bene o male, ma non credo che la responsabilità sia di chi lavora, anche quando, ripeto, soprattutto quando, ripeto, non si sta rimettendo in discussione tutto, si sta dicendo ci sono degli accordi sottoscritti, questi accordi sottoscritti non sono stati rispettati. D'altra parte io credo che un'azienda che intende fare servizi, che intende fare trasporto aereo, se lo conosce, ma mi sembra che non lo conosca molto bene, non può essere gestita come una fabbrica o come un ufficio. Questo lo dico non dal punto di vista sindacale, ma proprio industriale. Ci sono logiche e metodologie completamente diverse. E dall'altra parte credo che un'azienda che intende il rapporto con i lavoratori esclusivamente in termini autoritari e di comando, qui comando io, faccio come voglio io, nonostante qualcuno l'ha ricordato, lo faccia con i soldi dello Stato, perché di questo si tratta, ma credo che chi tratta così male i lavoratori difficilmente riuscirà a trattare bene i passeggeri. Questo è un dato. Quando si fa servizi, ripeto, al centro ci deve essere il passeggero, ci deve essere il cliente e via dicendo, lo dicono tutti, ma nessuno lo rispetta. E su questo Veneziani vuole replicare a Tomaselli, cioè ci spieghi perché lei trova onesto e giusto dire sì a questa nuova impresa, perché non ci sono perché l'alternativa è il fallimento, come ha detto sostanzialmente allora, Matteo. Prima di tutto perché l'alternativa è il fallimento, poi io credo che ci sia molta poca informazione un po' su tutto, e dico due parole. Molti piloti e molti comandanti non vedono l'ora di tornare a lavorare per un'azienda normale. Non credo, come pensa Tomaselli o come pensa Notaro, che quando i piloti, i comandanti, gli assistenti di volo conosceranno il contratto veramente bene diranno di no, anzi sono assolutamente certo che diranno di sì. È vero anche che ci sono delle controversie, ha ragione l'SDL, l'ANPAC, ci sono delle cose che la CAI interpreta in un modo e noi tutte le sigle sindacali le interpretiamo in un altro modo, però stiamo parlando di alcuni punti, pochi, che c'è questo, questa incomprensione, che loro vedono in un modo, noi ne vediamo in un altro, tant'è vero che abbiamo affidato tutto al dottor Letta per risolvere questa cosa. Bisogna ricordarsi che l'alternativa unica è il fallimento. Io quindi credo che nessuno abbia il buon senso di poter far trafugare una cosa del genere. Io credo che sia veramente poco probabile che questa cosa possa svanire. Massimo Notaro, visto che nei giorni passati o quando ci fu l'accordo ci furono anche delle polemiche su qualche dichiarazione fatta magari dal suo collega Fabio Berti e poi smentita, stante la situazione, stante anche le proteste, la sicurezza dei voli all'Italia oggi è tutta ai massimi livelli, è tutta tranquilla, non ci sono tensioni? Finché l'azienda sarà questa con questi piloti, la sicurezza la garantiamo noi. Poi per chiarezza voglio dire che Marco Veneziani, che dice che lui fa il pilota e andrà a lavorare per la CAI, sì, dovrebbe anche dire che è più di 3 anni che non vola, né per Alitalia né per nessun altro. Per cui per lui è facile dire che andrà a lavorare per la CAI, lui è 3 anni che non fa più il pilota. Se no ci dica qual è l'ultimo volo che ha fatto. Veneziani, è vero, Veneziani, questo, Veneziani. A New York settimana scorsa, sentiamo Veneziani. Veneziani. Mi fa replicare? Sì, certo, come no. Massimo Notaro non andrà a lavorare per la CAI come me, perché siamo negli esuberi. No, no, Massimo Notaro fa il comandante all'Alitalia, l'ultimo volo l'ha fatto la settimana scorsa. Ha capito? Dei voli in più pagati. Massimo, racconta quello che guadagni. No, no, Leni, racconta quando hai fatto l'ultimo volo, Marco. Io l'ho fatto settimana scorsa per New York. Nazionale. Allora, non faccio più il pilota e non vado a lavorare perché non faccio più il pilota. Sii sincero, io faccio il comandante, l'ultimo volo l'ho fatto la settimana scorsa per New York. Di quando hai fatto tu l'ultimo. Ma tu prendi lo stipendio della sindacalista per rappresenti una categoria senza fare il lavoro, è per quello che non li rappresenti e non fai quello che vogliono. Va bene, io no, non lo conosci più. Non vorrei riproporre una parte dell'assemblea sindacale di ieri, voglio dire, anche se Veneziani non c'era, ma insomma a capire che le tensioni ci sono. Però Notaro, Veneziani che su questo non ha risposto, però ha detto che lei non ne farebbe parte della CAI perché fa parte di quegli esuberi, insomma, di prepensione. È per quello oppure andrai in un'altra compagnia? Ce lo svegli? Io vado in un'altra compagnia, ve lo dico, ve lo dichiaro e poi ve lo dimostrerò con i fatti. Quale? Veneziani ci dimostri quando ha fatto l'ultimo volo che vabbè, ma adesso non è un processo. Quale non lo so, il lavoro lo cercherò e lo trovo. Va bene. Professor Aleggi, secondo lei è possibile, siamo in chiusura, che ci sia una serie di tanti piloti che andranno, emigreranno, diciamo, in altre compagnie? Sì, quanti? Qualcosa ci ha già detto che i bandi, per esempio, la Emirates li sta facendo. Quanti piloti, secondo lei, potranno essere toccati da questa volontà di andare via? Certo, non è facile vedere nella sfera di cristallo, e con quali problemi e ripercussioni? Aspettiamo di vedere cosa succede. È chiaro comunque che un ampio numero di piloti dovrà farlo comunque, perché CAI non intende assumerli. I numeri dichiarati da CAI sono lì sul tavolo. Certo. Quindi quello sarà il primo lotto da assorbire. Qualcuno andrà via subito permanentemente, qualcun altro, diciamo, galleggerà in attesa di un'occupazione definitiva. Quello che potrebbe molto svelenire il clima, e che mi sembra, mi possono correggere Notaro e Veneziani, ma mi sembra che manchi una previsione di uno strumento specifico per aiutare i piloti non assunti da CAI a superare questo periodo. Mi spiego. Mentre in quasi tutte le professioni, una volta, diciamo, iniziato, una volta fatto l'esame di Stato, iscritto all'ordine, eccetera, si può andare avanti per sempre, i piloti hanno numerose abilitazioni e controlli a scadenze ravvicinate, trimestrali, semestrali. Se queste abilitazioni scadono, anche se rimane il brevetto, è difficile trovare una nuova occupazione, diventa molto più costoso. Su questo, guardi, professore, io mi devo fermare, ma temo che di Alitalia o di CAI ne parleremo ancora nei giorni a venire, insomma, fino a dicembre, quando dovrebbe partire la nuova Alitalia. Mi fermo qui, come avete sentito, domani 2 ore di viva voce dedicata alle elezioni americane che chiuderanno, insomma, questa grandissima diretta tutta notte di Radio 24. Allora ringrazio Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Tulli in redazione, Giorgio Matè in regia. A domattina.